mi conoscete col cavo, fa magari potete passare il contatto, una saldatura fredda, io ti ripeto, per fare questa qua ti ricordo che io ce l'ho dal 78, a quasi all'inizio degli anni 80, cioè 26 anni questo microfono, eppure me lo sono preso, l'ho suonato da un amico che c'ha una stazione aria e mi ha tutti i contatti, tutto quanto le saldature veramente rinfrescate. Gappa, che andava allora? No, stavo facendo un verissimo. Ma sempre con Giulio? Cosa? Ho detto, sempre con Giulio, attaccato. No, ma sempre il solito impianto mio, il circuito 34 canali, antenna e microfono, già lo sai, come no? Giulio? E anche Giulio. Non faccio una bella roba, a voglia. Ma stai rientrando a casa tua? A Ugini? Sto sulla strada di Ugini io adesso. Santiago Nove. Sono esattamente dopo il bisogno di fissi, nella salita. Gappa, chi ne vuole entrare? No, e già siamo capiti a Roberto. Ciao Giulio. Qui sono chi seguono, mi ascolti in radio, Giulio? Mambo, questa bomboletta sì, allucinante. È una cosa assurda, eh. È una cosa assurda, veramente la bomboletta sta arrivando qua. Gappa, ciao Giuccia. No, non è a te, già ci siamo capiti con Roberto. Ciao Gava. Oh Luca, riprendo per gli Rinuzzi, che sono nella valle. Gappa. Giulio, è di più. Io ho pelle in alluminio con doppio vetro. Ma tu dove c'è la pelle? Il muro dove ci sono le persiane o dove c'è la finestra? Non ho capito. Negativo. Qua ti dico pure quanto è il telaio, aspetta. Il telaio di lunghezza è 1,64. A2, non ne ho A4 io, ce ne ho A2. Ehi, che di su, no, io giù. Le misure sono quelle, il metro non è né in più né in meno, non c'è problema. Sicuramente lì c'è le finestre, quelle vecchie, non le hanno mai cambiate, noi ce le avevamo cambiate. Tutto qua, K, ciao, ci sentiamo. E niente di su, non c'è problema, non si può fare, non c'è problema, cava, ciao. Scendo di radio, oh, di radio, c'è più, hai finito di rompere i coglioni, bello te, eh? Non toccavo il microfono, andato in radio. Avanti, se ti sei interrotto, hai detto non esci in radio e boh. Ma sicuro sei che lo schiacci bene? Ah, sta sicuro di gioco. Aspetta un attimo. Sicuramente è sporco, lo sporco. È sporco. Ma che hai dato non esci? Ehi, sarà chiuso fuori. Lo Zodiac, lo conosci? Ehi, il microfono è ladrillo. Pagare. E vabbè, sai che era meglio, siccome è un camionista, un amico, e c'è tutto strano, poi l'abbiamo portato in bocca, e ho aperto il microfono a stare, cioè la capsula al contrario, figurati, ma se domani viene se lo prende, cava, se vedi, attenzione, non mi dicono, cappa, forse magari se... ci vuole un ascoltatore magari per schiacciare bene la portante, capito? E che ascoltatore di bolino, lo chiamo quel lungo. Dove c'è il tastino, mi infili un gommino o qualche cosa, gli faccio un po' di spessore e le gai su conto. E Claudio non è entrato? Avvicina sta lì. Ehi? Beh, non ti ho risposto perché se lo sappiamo che c'è una roba stesa. Da qua arrivato in tempo, guarda là, io me ne vado a cena, già rientro dopo al limite, mi preparo qualcosa a mangiare. Cava, dopo, ciao. Ciao. Sono andato a posto un manacchino. Giovanni. Poi mi ascolti. Se ti ascolto bene. Dai, io faccio il nome bene. No, parlo il tuo. Anche mi ha staccato. Ma sto piovendo, sta lì. Sì, andava piovendo. Pazzo, io così ho fatto due trulli, due lampi e se non sa piovere. Ma di gamba. È proprio così. Ogni lampo che ha fatto, se ne ha fatto la scarica sul baracchino. Beh, pure qua già. Io me la sono fatta la consegna dei mobili da solo, ho preso il carrellino, ve l'ho messo nell'ascensore, signora, arrivederci, chiami l'ascensore. Ma così è. E come fate a scaricarlo dal camion? L'ho fatto scivolare, e l'ho messo il carrello sotto, il carrellino a due ruote. L'ho fatto scivolare, l'ho portato dentro sia l'ascensore, e poi mi ha detto, se non arrangio io, me lo metto nell'ascensore, va bene, arrivederci. Cappagà, meglio così. Però pensavo bombe, ci ho rischiato che mi si volasse la mano e che si sbasciasse. Cappagappa. Bisogna, guarda, è sempre così, ma quando una cosa pesa poi immobile, cavolo. Quando la solo lei venga bene. Poi se gli ho macchi, tu vado di pagare. Se stai scaricando lì questa commessa, le ho detto, prendilo che li dobbiamo aprire per controllarli. Non è caduto da mano, se tu che capisci che fa. Cappa. Allora abbiamo messo in bolla che ce ne davano rotto, e se non mi va. Vabbè, tu li paga tu. E tanto gli agocciano i bocco, io ho nozzi. Sono perlomeno il colore del noce, non lo so se è il noce e legno. Però costa un bel. Sono tutti quelli massicci, capito, grossi. Cappa, si anda bene. Allora mi ascolti bene già di radio. Scappa, di lusso, lusso. Ma è meglio questo o il Milan mio? Ma siamo buoni tutti e due, questa è una radio molto naturale, come se in verticale, abbastanza presente. Non è fortissima, ma è normale, dai. Scappa, mi andava, va. Già va bene, già va. Cos'è un Milan? Zodiac. E che modello è? Non mi dire che lo Zodiac, sai come si chiama? Quello che ha le bande laterali, eccetera, eccetera. Negativo. Ah. La Y? Questo qua è Zodiac M5040, è omologato, 40 canali, AM/FM, filtro, poi c'ha volume, squelci RFI, monovaso. È normale, è un apparato normale come quello che c'è in macchina. Prima li facevano così, ma chi che non li puniva, non puniva di nulla. No, adesso no, stava fatto la vede barriata per tutt'ora, ma poi ha smesso. Capito. Oh, perché qua la nostra montagna ha dato un bel colpo d'acqua. Ci veniamo con i paesi, no? Verso le 7:10 a Forlottone gli ha fatto di barriata perché stavo portando una consegna e ha fatto le 7:10 di barriata leva allucinante. Io non so sì. Ma che qua ha piovuto un bel. Allora siamo 10 minuti, infatti ho girato comunque ancora delle antenne, ho attaccato le antenne praticamente, ho messo le antenne tutte a zero perché no, io li stacco solo praticamente l'antenna diretta è l'interruttore che lo stecco, quindi non ne arriva corretto. Ma c'è qualcuno sotto? Noi stiamo parlando, ma no, non me l'hanno fatti di a me. Non lo so, sono due che stanno parlando, ma no, non me l'hanno fatti di a me, mi sento benissimo. E quindi Luca, hai chiamato il microfono? Sì, di un amico, è quello che stiamo parlando stasera, Daniele Gabuccioni. Dimmi una cosa, che più, insomma, che più squillante come radio, questa di questa nostra zona adesso o del mio Midland? Questa è più squillante, quella del Midland è leggermente più forte ma meno chiara. adesso invece è molto, molto più chiara, capì? Va molto meglio. Te lo ricordi quel microfono gatta, Mario? Gatto, va. Mario Franco, uguale. Prova questo qua della Zuriga. 500 ohm. Ah, 500 ohm, vabbè, l'internet ci va. L'internet è quello tuo, è diverso. Magari non è 500 ohm. Questo è molto chiaro, la modulazione. Ciao, Giovanni, date salutato, boh, sono mezzo rincoglionito per sé. Sì, sì. E già dunque. Allora, che si dice che si fa? Oi, spaghetti con croi. Ah, io quando vengono quella... Vuoi che lo ti dica? E c'è la mattina, perché? Come facciamo il lavoro? Però come gli stazionari, non so se c'è ancora. Evidentemente come... Fatto, ma rientra in gira a Passelli. Entrando in discesa Natali, cos'è già? Nulla si è fatto. No, niente, adesso va bene il rimorchio, l'ha riportato in carreggiata, ma ha sbattuto il guardarai, capito? Quindi ha fatto la nuova macchina sicuramente. Ma credo di essere caldo, quindi già ho sentito la nuova voce. Eh beh, ci credo. Il rimorchio come si gira ti spinge e ti fa uscire fuori strada. Ma c'è una macchina brutta che quando piove lo si luce. Vabbè, sono qua in ascolto, nel caso mi chiama Gianni, lasciate un attimo di bianco, tra un passeggio e l'altro. Se chiama Gianni vado qua a recuperarlo. Luca. Dimmi, Luca. Tutto a poco, sì. Hai capito quello che ti ho detto? Ho capito quello che mi hai detto. Ehi, il microfono. Più chiara la modulazione, capito? Rispetto al Milan, però il Milan è più forte. Cava, altro c'è il mobico. E la sinistra. Il pleno chiudo, ciccia, ma non hai detto, lo prende. Questo è il numero uno, non ce l'ha, capito? Luscio, bellissimo, bellissimo proprio, alla grande, questo sì, 9:30 è il segnale, c'è la radio, è un battute. La paga, mandami, ripeta a Gianni, ripeta a tu. Lascia un po' di fianco là, che faccia gelare. Cappa, andavi, ma è ripartito, no Claudio, chiedi se è ripartito. Chiedi da Piccillo se è ripartito, se è condizione di ripartire con me. Io già non lascevo, c'è Valentino lì. Gianni, Piccillo, della terra che stanno controllando, capito? È la terra che stanno controllando già, poi ci vedrà. Cappa. Già va bene, meno male che non si è fatto male, dai. Scusa, perché quando succede così il rimorchio si gira e ti spinge dall'altra parte e piglia la cabina. Sì, è un bel casino, quando è così, non stare molto attenti, ma lui già è una vita sotto la macchina, comunque, è andata bene, eh. Adesso aspetto un attimino a vedere se mi chiama. Ma quando c'è acqua, manco i comandi risponde, capito? Non risponde manco ai comandi, se ne va con il suo. Poi quando è pesante così il mezzo, oiui. Ultimo giorno che è troppo che fermi, mamma mia, che ma brutto però. Ha fatto spaventare, cazzo, non ho sentito a voci. Si sarà spaventato sicuramente, si era scioccato. Avanti. Ciao Gianni, ciao Claudio. Ciao, chi sei, Roberto? Capo, adesso con la colante la piccola, sto provando la piccola. Ma perché c'è la bollicina con l'acqua, quando farli? Ecco. Ma tu lo senti, ui? C'è una riuscita di acquavette. A rosa? Sta ficcando. Ho capito, Claudio. macchina blu. E poi ti prego per quando fa le bollicine, roba del genere. Che sera. Oh, mia, che ridere. Oh, Fabio. Guarda con questa antenna come arrivo. Col passo non l'ho mai trovata. Io 9 più 40 quasi. E con l'altro fa 9,60. Quanto fa? Maria, 9,60. Ciao, Maria, c'è una di un attimo, Maria. Buonasera a tutti. Ando su un canale, così non mi sbaglio, perché i nomi sono un po' tanti. Andrà bene. Rientrato, buona buona. Scusate, ciao Mario. Claudio, sempre la solita, sempre lo zodiaco questo qua. Ho provato a mettergli la capsula del microfono mio, come va? Non sono con l'antenna grande, non è che posso fare un confronto col solito, però secondo me è un po' saturato. ma poca roba, però la radio è molto comprensibile. Vabbè, siamo tanti, quindi in città e così, capito? L'importante è che, vabbè, posso parlare sempre per la terra più ingresso e quindi eliminare quella leggera saturazione che c'è, ma non è che faccia niente di grave, eh. Ok, così invece siamo normali come sempre. Ok, perfetto, Mario. Mario è andato a mettere la pappa, eh. Riprendi Gianni, dove sei arrivato? Sono a casa, dai, correti per me, che sono un po' scelto. Ehi, ehi, adesso vado anch'io a mettere... Abbiamo la mano alla signora qua a preparare, poi... E poi mi sarei mai andato a letto. Mi è venuto il tumore di stomaco lungo, ma è contagiato che sotto, proprio qua, sotto la faccia. Un dolore allucinante, l'ho arrivato, l'abbiamo mille ancora, non è passato. Ho sotto di si battigli, contagiato, come mi sta passando? Ma non, sì, un po', leggermente mi tira, ma poca roba, e niente, mi sta passando, speriamo male che era scolto qualche colpo d'aria, perché colpi non ne ho preso, colpi d'aria sì, ma colpi no. Attenzione, sempre colpi sono mio, colpo d'aria, i colpi sempre colpi hai preso. Cappa, no, non mi fa male. Non lo so, ma sicuramente non fa, Claudio, sai quando mangio un bel, poi sai com'è, devo andare a scaricare, e se non scarico poi mi tira. Ma quante sa cosa ti dico me, non lo so, se non è quello che ho mangiato, perché a me oggi capitano che sto mangiando in bianco, vediamo, faccio un po' di colizia, mangiati cavolo, la salsiccia a pranzo, mi piace un bel. Mi ha aggiunto questo dolore allucinante. Vabbè, dai ragazzi, ci sentiamo dopo, fate buon proseguo a tutti, sono qua in Quarix. Lasciate un po' di bianco tra un passaggio e l'altro, visto che mangiando lo sentiamo, ok? K, dai, ci lascio un po' di bianco. Niente, tanto io già non l'ascolto, Gianni Bicciritto, le prende roba, dai. No, io non lo so, non posso ascoltare perché sono una antenna piccola. Per il momento non ho sentito, sono appena entrato io. Gianni, vabbè, cos'hai rotto? Allora, non ho detto, a me non è giusto. Anzi, l'importante è che sia andato tutto bene, già, dai. Ce la fai qui di arrivare a casa, tranquillo. Guarda, da te adesso, dai, vediamo un po'. Vi rompo le balle stasera. questa qua è la prima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, sono proprio volata. Mi viene che più bella di volare, questa o l'altra? Cazzo, non ti fidi di qua, tu non ti fidi mai di nessuno, cazzo. No, ma non è che non mi fido, là. Non è che non mi fido, ci mancherebbe. Come dici, a chiedere anche a loro. Allora, dai, ho già visto, questa qua è la seconda. A me è barriera meglio la prima. La prima è meglio, no? Ok, basta. Cosa faccio io, Luca? Vabbè, allora già andava. Sono uguali, Luca, sono uguali, però la cassa che hai montato sul tuo microfono ha una tonalità più elevata, più bella, più chiara, capito? Ha una... dei migliorati molto, molto belli, molto più chiari rispetto all'altra cassa. Sono belle tutte e due, anche l'altra è una bella radio, però quell'altra cassa è la migliore. Capo, l'ho notato pure io, perché il volume dell'altro baracchino praticamente è a metà, diciamo. La sento più squillante questo. Io sto per chiedere a loro com'era. Ma buona, faccio tutto così allora, cava. Ehi, sto scherzando, non c'è problema. Cava lava. No, che è una PC, non mi ascolta. La caruta a Luca. A fettettine. Che nei guai. Giulio, sta parlando. Ciao Gianni, non rientro con tutto, dai. Ma fallo, bravo, fallo. Ok, colpo che ho preso. Mi fa male tutto il fianco, capito? Venga, quando c'è sto rientro con le macchine, con le manovre si possono fare, ti ripeto. Quindi non c'è problema. È tutta la tua esperienza che ti ha portato a fare con la manovra. Non c'è problema, capito? Luca, tu a che accorgi se sta lampeggiando, per caso? Perché dopo non ci sei. Sto tranquillo, non mi ripeta, buonasera. Come dici tu, Natali? Se lampeggiando, se sta facendo un temporale, perché si sta avvicinando il temporale, me ne sono accorto dall'altro. Poi l'hanno attaccato le antenne dall'altro perché non mi fido. Sto figlio di una fanguala. No, qua non sta lampeggiando. Infatti ho messo la lampada d'emergenza a caricare. Mi sa mai che se ne vada la luce. Lui. Ciao Franco. Ciao Luca, ciao Natalino, non so che altro ci sia. Buonasera a tutti e due. Il numero di casa tua qual è, Fra? Il numero? Di casa tua. Sì. Numero 6? Di sesto. Cava. E basta. E allora Luca? Vabbè, a compiti come sei, Natali? Entri in vendi? Kappa, da giù un bene, no, via fatti. Infatti volevo far vedere un po' di compiti, vabbè, ma... A maggio si naviga, vamos! E vai là, ti assicuro io. Kappa. Mi rivendo un diploma, mi rivendo, cazzo, ma ne ho attaccato le antenne perché non mi fido che si sta avvicinando qualche temporale, sicuramente. Mi rendico il tiro smettere, allora si inoghi del temporale. No, ma non ne ho visto io perlomeno. E poi ce l'ho già scaricato a macchina, è cortocircuitata questa antenna qua, che è venuta. Ma io non mi fido. Sorpresa. E ne ha distaccati. Mi ha fatto un po' di tutti, ma la sorte. Solo che ne devo fare un po' da un'altra parte per essere sicuro proprio. Io mi è arrivata quella cosa all'ascolto, mi è arrivata. Cazzo, dopo di un mese. Oh. E vabbè, l'importante è che sia arrivata. Io mi ho fatto le QSL, non ho fatto. C'è anche la, mi è arrivata quella, ma c'è la sigla pure, SCKS. tanto c'è la sigla, se non c'è la sigla non te ne fa nulla. Io mi sono fatto le QSL, mi sono fatto 9, si rivede da Sustiche. Ragazza, ah, c'è la sigla come la patente praticamente, questa qua è la sigla SCKS, 1/29 CA. E il numero è il foglio. Capito. Me le sono fatte perché mi servivano. Cioè, se no, se tu non lo so, ci vuole la QSL, gli voglio mandare, ma la sorte. Ah, come sei in basso? Sei basso di radio. Cosa, Luca? Che sei in basso di radio? Sto usando il microfono normale, lui. Allora me ne affutti, portate in mente, se no ci metto quella normale. Capito. Cava, cava. Ah, quelli così, questa voce va a fare come i compiti, ma cos'è la roba uglia, guarda, non ti dico nulla. Qui sarà una di due, mi sono cucchelli. Ah, io addirittura mi devo fare. Guarda, rimane, di più mi sono sviluppati. Ma tu chiedi, una divana o no, oggi va finito. Io avevo un quaderno di compiti fatto, un quaderno di quelli a quadretti, tutto pieno di compiti. Adesso anche le normative, metà di libro normative, poi chiaramente quando sto occupando con una ripassata veloce, se no magari qualche cosa così si dice mi ci sfugge, è un problema. Va bene. Cazzo di le QSL cazzo che ho fatto, ma sono di lusso a vivo. Già so che vederle. Oggi sto giocando in officina a casa, mamma mia, non ne posso più. Faccio la china a pezzi. Poi ho portato la macchina a revisione perché mi hanno fermato stamattina. Il caramba, praticamente hanno controllato il libretto, ma dice, ma c'è una cosa che dice, è stata revisione, ho fatto e ho detto, cosa devo fare, guardi, mi è sfuggito, guardi, vado in fretta a fare la revisione, se no la prossima volta dice, ritiriamo il libretto. E un milione di Mustamuru, mi ha voluto bene, che c'era un amico, capito, meno male. E oltre i punti, buru di punti mi pare che mi gava, ma non me la mento, ma... Lo so come, so che 500 euro tu ti fermano il mezzo, praticamente ti ritirano il libretto. E devi andare alla motorizzazione a farla poi. D'obbligo. Chiaramente sì, un macello, pacare dai via. Oglioi. Quando piove le stazionari aumentano, un pochettino le stazionari e ciò, alle sopra dell'una, ma già sono regolari, non è che siano. Cazzo, ma mando la guastella a Salvatore, vado qua. Tanto l'ho sentito e quindi il collegamento già a sé. Io la mando così rimane abbastanza aperta quando la vedo. No, ma fai il collegamento, cioè tu ascolti praticamente sulla frequenza radiovatture e poi ti mandi la guastella direttamente, no? Allora, e loro ti mandano quella di loro, capito? Però ti devi scrivere due volte, non una volta come scrivono loro, perché loro stanno collegando loro, capito? Invece tu devi sentire le due stazioni, praticamente devi prendere i nominativi tutti e due. E segnarli e poi, ho capito, e poi spedire la questione. Cava gappa, ma loro poi te la rimandano indietro anche, o te la rispediscono anche loro la questione, come funziona? No, quella di loro ti mandano. Cava gappa. Cioè, tu ascolti, spedisci la stessa cosa come va in trasmissione, invece di parlare non parli, ascolti e tu spedisci, ho capito. E io l'ho fatta per SWL, la QSL, no? Capito? Ma non davvero me. Beh, sai, se voglio far vedere una cosa, che tu magari di queste cose, due tre due busca. A me mi sono arrivati due fogli. Oh, due fogli, uno a tre secondo, uno è questo. Allora, uno è proprio quella in cartone timbrata dal Ministero proprio delle telecomunicazioni, che c'è il timbro, e più dietro c'è un altro foglio, che c'è scritto IL ILSCK e poi c'è il numero della sigla 00945. E quella lì è 00945, devi scrivere Marazia, così è. No, è praticamente 00945, c'è I/SCK. No, Marazia dovrebbe essere. No, questa è la sigla, c'è scritto sigla SCK. Ma che strano. Tu cosa vuoi che dica? È così, due fogli, infatti c'è scritto, l'altra è attestata, attività, tutto quanto, PVL, poi c'è questa, l'altra è attaccata lì e c'è scritto protocollo 0945, ILSCK e tutto quanto. Poi c'è la via mia, tutto quanto, firmato. Ah, oh, nel coso c'è scritto, in quello del cartoncino nominativo c'è scritto questo PVL, il numero sotto. Ah, ecco, sì, adesso l'ho visto. SWL, numero 1/29/CA. E quello lì è. Ma te lo convinto che era Isuga? No. Tu la devi incorniciare, Idu Rugartoncino. Ed è quello il nominativo che ti serve a te. Non ti ha incorniciato, sai che bella è uscita. Adesso c'ho concessione, quella lì, e poi se Dio vuole conduciamo anche la patente. E no, la patente non la devi incorniciare. Te lo rivendi, penso che quel diploma là lo sto tornando rifacendo per quest'anno. E ne ho fatto già un bel po' di collegamenti. 26, però punti ne ho fatto sì perché ho beccato due stazioni che davano 3 punti. 40 milioni di punti comunque, va. In cui tanti fai 40 collegamenti, si va bene, per il minimo, io lo sto gareggiando quest'anno. Quando l'avevo fatto io già sto gareggiando i primi. Stavo dicendo, ma noi devi far vedere come ci fanno, come devo fare per quelle cose. Ma il computer ci vuole, Natale? No, e cosa se ne fa il computer? Ci vuole magari per controllare i nominativi. Capito? Però io già ne ho qua sul logo vecchio, me li stanno controllando da lì, se è tutto giusto, no? Quindi per ascoltare negli 80 metri praticamente, ascolti, spedisci così, E il logo vogliono, devi compilare il logo, no? Di tutti i collegamenti, loro lo controllano, se è giusto ti mandano il diploma. Il logo di stazione, quello che hai mai fatto tu? No. Quello per gli SWL, che c'è tutto doppio, dopo te lo faccio vedere, basta che ti fai vedere, qui dopo già ti faccio vedere tutto io. Adesso, normalmente quando vieni, non avvio ancora, quindi, ma capa io non sa capa l'antenna, perché sennò mi avrei collegato quelli degli 80 adesso. Kappa, e quando salgo ti porto su anche un po' di roba, devo fare un po' di compiti, tutta roba... La procedura di tutti gli esami che ho qua, tutto calcoli, tutte queste formule qua. E sicuramente tu quelle formule qua non sei arrivato, Ma non me la fotti, io me la piglio piano, ho preso, andando, dove sei pronto, nel senso che devo staccare il culo agli uccelletti. Io vado nel bosco, io sto studiando, ma sai, oramai io sto visto tutto, a maggio io devo presentarmi per forza. Tutto la pensi, se la va, cosa di una fissa. Gava, ma speriamo bene, dice quello, piano, io sto studiando, perlomeno tutta quella roba che c'è, già me la sto tenendo in mente, chiaramente poi devo ripassare tutto. Cappa. Cappa fatto, aiutami. Allora, fa vedere, ma... Allora, lo so, voglio mettere nella QSL. Beh, dimmi. Prima gli ho messo il nominativo, il coso con due colori, i colori di Sassari, no? Poi a fianco gli ho messo la bandiera sarda e sotto il comune, lo stemma del comune di Sassari. Dopo dietro gli ho messo la cosa che devi segnare, no? Praticamente, ma tanto è toga. Ma va, comunque mi stavano dicendo la tariffa, dice praticamente per ottenere questa roba qua, dice, si informano qui. E secondo me, secondo se c'hai cosa di fudine penale non te ne danno. Ah, non sapevi, tu lasci limpido, anche se no ti dà dei brutti lupa. E se no questa qua non te la danno, assolutamente. E quella è la patente, devi essere una persona come si deve, se no nulla. Cava, cava. Invece anche per la concessione invece è diverso forse. No, anche la concessione era così. Se c'è qualcosa che non va non te ne vada, no. Si va a New Gold, hanno modulato assolutamente. Cazzo, bubu, allucinante. E adesso il direttore forse non c'è più quello lì, perché l'ha firmata la dottoressa Giagu. E vuol dire che quella si occupa di quello. Capito. Il direttore si occupa di altre cose, vuol dire. Cazzo, stamattina sono andato in barca a ciambare a scena, ce n'era poco di gente, madonna cazzo, ero 32esimo. Arrabbiato. Mi ha pagato 130 euro di telefono a Tarì. Come? Perché il telefono c'era a casa fisso? Sì, il telefonino della ditta, 130 euro, è uscito 230 euro. Come ti vai? Ma a bolletta, ragazzi. Allora. Mamma mia, che... No, ma l'ha chiuso in Atari, infatti ho anche bisticciato, qua, ci ho bisticciato questo telefono. E gli ho detto, ascolta, ma cazzo, e dice, no, è giusto che devo ballare il telefono di lui, che tu tratti il telefono, va dito come te la radio, boh. E su pure il vero, lì non devi ballare i telefonati lui, no? E tu devi essere patrimonioso con il telefono, fa ragione, mi. Ordina. Va bene, Atari, ma quando ce l'hai lo usi, io sono fatto così, non ve lo dico. Tutto di su di voi, ma io devo pagare i telefonati due, no? Tu pagare i telefonati che tratti ma per usi visi. E va ragione. E lui dice, tu sono Aid. E tu dici, ma ragione. E io ti lo do con il telefono, però tu paghi. Se il telefono è per i cazzi tuoi, devi pagare. Così ti dice, il padrone ne ha tutti nulla, no? O adesso così. KK. E oggi non è entrato, era andata lì. Ah, oh, ancora no, addirittura si è fatto male, cazzo, non può camminare. Fatto male. Oh. E quando rientra adesso? Ha bisogno di vino. Allucinante, raga. Era diretta a Luigi, cioè, beh, lui, io mi sono occupato male un po' di infortuni. Ma proprio poi dava a dire di infortuni, aveva bisogno di revisione. Gli rovini il lavoro. Per carità, per carità. Perché non è malattia dura del fuggito. È una bella fase la cosa. Ma non migliora una salì. Ma mai quello da voglio andare a contare tutto ti diranno i ladri. Mamma mia, sono sempre fatto appendere. No, ma non c'è Roberto. No, non ho sentito Luca Roberto. Vabbè, ci sei più, ci sei ancora. Cappa, sto ascoltando. Cava. Ciao Roberto, io non lo sapevo che ci viene neanche, figurati un po', buonasera. Ciao anche a te, buonasera, non ci sono di Cuba. E dipende mica poco, io non credo. Anche perché, ma io anche sapevo che c'era Roberto, per questo, perché l'ha acceso poco fa. Ho sentito che c'eri tu, Martarino, poi tu sei passato con RT. Io con RT, ma è ubriaco sì, non li metti matrimoni. Allora l'ascolto. Beh, ok. Ma io finito di baracchia. Davvero, bro. Ciao Tino, buonasera. Buona a tutti. C'era Mario, c'era Claudio, c'era Gianni, c'era Dappi. Io c'era lui, io sono tutti quanti, io ho sentito la Salino, tu poi, no, a Roberto non l'ho sentito che c'era, se no l'avrei fatto entrare. Riprende Robè. Ciao Tino, mi hai sentito? No, parlate, voi stavo leggendo, tanto non ci sono problemi. Ciao Tino, buon correttia e prossimo K. La sera diversa, Luca. cazzo, fra, mi voleva. Riprende la sali. Ma che fa, fra, che c'è una cosa, no? Fai fa. Riprendi, allora, che facciamo riprendere? Riprendi, Robè. No, stavo dicendo a Natalino che ho trovato un po' di progetti di antenne, ho trovato queste rombi che è micidiali, ed è per la 27. Sì, Natalino già se le sa costruire le antenne. Quelli sono cubi che si chiamano, capito? Quei rombi che dici tu sono cubi che quelle lì. Qua le chiamano antenne quadri, che concordo, aspetta un momento, c'è possibile risoluzione dei quadri tra la data e l'impedenza. E c'è tutto il progetto fatto, semplicissimo, e poi c'è un dipolo orizzontale a 50 ohm. E già capito qualche giorno lo Salvatore, che adesso gli faccio, gli spesco l'acqua e quelle, siccome l'ho sentito, no? E l'ho segnato al logo a lui e all'altro che stavano parlando, no? Allora prendo adesso e gli mando la pezzella, quindi dopo lui me la deve mandare a me. Vabbè, a tali, hai trovato la guastrella, a me spesso 100 euro. E la vuoi tu tanto me ne spedisci a me? Tu sento? No, ti devo un capiuta. Sì, uso. La manca a mollo, se state timbrato, se recupera la manca a mollo. O dell'occhio, anzi, immagino che sarà. E allora quello qua ha segnato 1000 euro. Manda, ragazzi, manda, parlate a sono buoni quelli, e me la dare. Abbiamo due però ti domando, Ma Teresa che fine ha fatto? E Teresa c'è la madre che non sta bene, Luca. No, ah, è vero, mo sta leggendo mamma. Cava. E adesso devono anche operare, adesso non so quando si ricovera, poi c'è la prossima settimana, poi bisogna vedere. Saluta la Teresa, cappa. Dava di positivo. Ah, piccino, ripeto. Sì, è rientrato, adesso stava rientrando. Su carico, mamma mia, io dal cuore. Ci vuole molta esperienza, molta. Attento, Mario, si vai copiando qua, il molto rosello, cava. Calico, dimmi la Sari. Vedi quel cartoncino il numero? E quale cartoncino? E quello che ti è arrivato, vedi il numero. Ma è quella patente? Sì. Allora, 1/29CA. Piatto vai. Allora, 1/29CA, così è. K. Allora Luca, Robert riprendi. Sì, è lo già riprendo, no, stavo leggendo questi giornali lì, trovate, ci sono tutti gli apparati che state utilizzando, molti che state utilizzando voi, cazzo, un microfono, un coso, un cane, 180.000 lire portava nell'85. E addirittura Robert. Ci sono tutti tristi, ho un cazzo, una vecchia rivista al circuito elettronica nell'85, ci sono tutti gli apparati che adesso noi troviamo, ecco, ma costavano già una massa di soldi. Figurati, allucinante che 180.000 lire nell'85 erano un po' di dinamiche. E adesso li trovi molto meno, comunque. Non so, poi ho dato questa rivista, quella che avevo utilizzato io per fare il diplomo per l'FM, c'è tutto spiegato per fare le antenne per il conto, per il CB, per le frequenze. C'è una bella antenna rombica, io la chiamo, lui la chiama Romolo Vattalino, semplicissima da costruire, poi sono di polo spesso da fare e di quelli orizzontali. No, veramente fatti bene, come proprio fatti per artigiani, dai, artigianalmente. Cava. Che è bello saperle costruire le antenne, basta buscare alluminio, carta e del filo si possono fare, non è che ci voglia tutta questa grande pratica costruirla. No, io l'avevo fatto anni fa, parliamo nell'83-84, ho fatto un dipolo chiuso, ripiegato, e funzionava, con un unico elemento. Ho detto, fessurina che ci ho buttato quattro direttive io per l'FM, c'erano un sacco di pizzi con tutte le accoppiature della Giampardi, da poco pure, quest'estate, adesso tanto non me ne voluto nulla, mi adesso le avrei volute. Cappa, non si ci butta mai niente roba, ma non che roba che proprio non ti serve, se no, come lasciarmi? Poi erano con le accoppiature strane, la cosa più difficile è fare un dipolo con le accoppiature, per trovarli. E queste erano in plastica chiusi, con le viti passanti in acciaio inox, e ci filava il cavo le regi 58, le regi, no, qua c'erano le regi 200. No, Robert, stavo dicendo. vicino lì a vedere, c'era il sportello tutto ammaccato, che praticamente aveva toccato il tram e non mi aveva mai pagato. La brava, la 1004. La portiera cosa è finita o destra? Praticamente la destra, dalla parte posteriore. Ma si può riparare o da sostituire? No, è appena ammaccata. Io stavo provando a tirarla fuori, ma bisogna smontarne il pannello e un macello. No, se tiri fuori fai danno, è buono. Non ti mettere a battere così, se no sono punte. E ormai la mia si è dilattata, bisogna scaldarla per farla raddrizzare. Se no ti dico che fai più perdere più tempo che altro. Infatti, vabbè, quando un giorno, alla prossima settimana magari, che c'è qualche giorno libero, te la porto. Capo, la voce vediamo, non so come è metallizzata. Per pura disgrazia, sì. E grigia? No, è coso, è color melanzana. Mamma mia, quindi è un mezzialista pure come macchina? No, è tenuta abbastanza bene come macchina. So perché vanno sfumati i pezzi vicini, adiacenti, il palafango, l'altra portiera, ma non che non c'è una marcatura centrale, se no devi sfumare anche i pezzi vicini, perché quello è un micalizzato. No, rimane, lo sai dove? Praticamente, dove sono lì proprio, dove c'è all'estremità del vetro, appena più giù a 5 cm. Sì, ma in posizione centrale o portata verso il palafango o verso la portiera? No, posizione centrale. Se è una piccola marcatura e si riesce a evitare di verificare due pezzi confinati è meglio, se no bisogna sfumare i due pezzi, se no c'è la differenza di colore. Quello, e vabbè, quando lo vedi, vabbè, tu sei del mestiere e vedi un po' cosa si può fare. Gappa. Ma Gianni non ti ho sentito? Poco, non ti ripeto la voce tutti. Vabbè, io mi allontano e vado a fare un po' di carica batterie, dai. Ciao Roberto, ciao Natalino. Ciao Luca e ciao anche a quelli che sono in ascolto. Allora ti riprendo dopo col break. Ciao Natale, ci sentiamo dopo. Ciao Francia. E vado a papai. E vai là, io già ho già passato. E vabbè, se siete qua già entro dopo, là. E cazzo. Ciao Franco, buona carica, a dopo se mai. Capa Robe, dai, vado a mangiare, che a mezzogiorno non ce n'ho tanto niente, quindi adesso vado a cenare. Capito, cava gappa. Saluto a tutti quelli che sono all'ascolto, dai. Natale, lo sai che tipo di antenna è qua, le conosci? E la cubica è. Così ci sono sempre dato tutto, ma proprio in tutti i particolari. È un lettore della mia vita che ha fatto il disegno tutto schematico, è abbastanza semplice da costruire. E ha fatto il modo di non fare la onda intera ridotta, l'ha fatta un ottavo, mi sembra. Sì, vabbè. Guarda un po' se... Vabbè, allora. Quindi una cosa, mi deve prestare gli anni un preamplificato delle antenne, tu hai avuto modo di usarle? Ma per la 27 non te ne fai nulla, porti dentro tutta la mollezza. Entra anche corrente, cioè non migliora niente, non c'è necessità, cioè dico, non c'hai vantaggi. Allora, la mollezza butti in carro a 30. Ma non è regolabile, questo che c'è detto che c'è dice che è regolabile, non l'ha mai usato. Qualcuno dice che funziona, no? Perché io noto che le ricezioni in certe zone sono un po' carente. Ma se c'è molto disturbi ti porti dentro anche i disturbi, perché quello ha il coso di amplificare. Se la frequenza è pulita già funziona, ma se sporca poco a poco, il minimo segnale è l'occhio, te lo amplifica, capito? Sì, naturalmente come logica ti amplifica anche i disturbi, cioè il QRM e il fuoriuscita, però magari se è selettivo, magari se non si riesce a prendere, se è abbastanza selettivo forse riesce a fare qualcosa. E magari con qualche antenna silenziosa lo puoi usare, tipo di soli, capito? E allora sono più silenziosi, lo puoi usare per amplificare, uno che senti basso a basso lo alzi un po' di cosa, no? Di segnale. Ah no, io quando ho tempo mi voglio fare una direttiva per la ricezione col motore, se no tanto un motore, ce l'ho un motore che mi è rimasto di un impianto satellitare, orizzontale, che tu fai orizzontale, e voglio fare delle prove. C'ho anche l'indicatore dei gradi, digitale, e dopo lo voglio provare. E cazzo. Luca, ci sei ancora? Chi è rimasto? C'è qualche un altro sotto tra Natalino? Mario, ci sei? Già ci sono, già ci sono. Stavo imbuttendo. Imbuttendo, dici, eh? È un po' di spazio, ho mangiato, cava. Vabbè, un attimo di quel rex, io che lo vedo un po' se riesco a fare qualche cosa in 80 metri. no, qua, vedo un po', ho ricollegato l'antenna, vediamo un po', che prima non ne va l'aria. Sono affonato 80 metri, mio, ma qualcosa si fare? Ehi, allora, qua corda, per forza. Ah, una cosa volevo attaccare che? Eh beh, no, ho la corda, ho la corda. Cappa, io andavo, c'è il mio occhi, ma cosa sta succedendo adesso? Col baracchino, cosa volevo l'Intec 544, sì. No, no, mi antenna, cosa stai utilizzando, dico? La lampada. Ah, cappa, no, se no è bello pieno, fa forte. L'Intec. Arrivi fortissimo qua. Fa passa di un'altra di qua, fai. Sono ti sforzi. Uno, su uno, te dammi uno. 9.10 sì, l'altro 9.20 qua. Sì, vabbè, chi si va, dove va? Poi, vabbè, ma provo a vedere se c'è qualcuno, se no spengo e ritorno qui. Vada, vada, se deve andare, vada. No, oh, ma c'è la stessa piccinilla quando sono uscito fuori. Ah? Sono Gianni quando sono uscito fuori, non mi sono legato, eri d'accordo? Io non ce l'ho sentito voi. No, no, ecco già l'ho sentito bene, ma dice se parla tanto qua, dice che l'ho sentito a casa, non lo stavo dicendo lui. No, io non l'ho sentito. Non intendivo, vabbè. Ma cosa è successo, non si sa? Praticamente gli si è girato il rimorchio, quanto ho capito. Io ho capito che ma dove? Lì, ma insomma, cosa lo sa? La ragazza di Giacarcia, buonasera. Mamma mia, fa la stessa ricorda, quella curva è maledetta, quella tende a sbatterti fuori, è pericolosissima la curva, mamma mia. Sì, è molto pericolosa, molto, molto, molto, cava, cava. Lui era in discesa, a carico, per giunta, come ha fatto la curva, la signora andata. Ah, ma guarda, ma anche a me è successo quando avevo un arrivo, lì mi è uscito dalla macchina, tutto meno male, non se l'ho pensata, perché lì, secondo me, se si lo pensa, neanche te ne accorgi. Comunque già, forse il carico si è spostato, può essere. Sì, solitamente quando sono carico quei mezzi lì, a meno che avessi già scaricato da altre parti, ma la roba è passata una attaccata all'altra, non si può spostare. Quando metti quelli nelle pedane dell'acqua, sono una attaccata all'altra, è difficile anche accogliere con un muletto le prime perché vuole spostato, vuole traslato, perché c'è cosa che blocca, capito? Cappa, cappa. Vabbè, ma non voglio andare bene, va. Sì, ma l'acqua già si può spostare perché a volte c'è quella di sotto e piega, capito? Meglio c'è andata così, va. Cioè, lui. Vabbè, interessante che non si sia fatto male lui. Cappa di errore, metro. Cava, cava. Ehi. Già, adesso la faccio contro la prova. Vediamo un po' cosa mi dici tu. C'è un fine, da. Che mi la modulazione? Questa, ascolta bene, 1, 2, 3. Sì, non siamo andando un vinello, Non siamo andando un vinello. Beh, voglio sapere che è meglio. O questa. O la. La prima per me. Questa è più cupa. Più cupa, Sì, sì, allora, non è che... Adesso dice a casa, non mi credi. Ma oggi volevo chiedere, vai, tu mi dici, è meglio la seconda, guardi, capito? No, vabbè, tutti quanti hanno attento la prima, e va bene, sto contento. Luca, perché l'altra rimane più chiusa, più occupata con la modulazione, invece questa è, la prima è chiara, capito? Scusa se ti disturbo, ma come si scrive Noble? Noble! No! Eia! Maledetto per quello che lo va a fare. Grazie già. Goble. Goble. Ehi, già. Metto in via sotto, mi sto ascoltando. Lucchetto. Con la chimica, Clara. Goble. Con la G? Sì, Goble. Goble. Io non voglio che tu Goble. Tu dici una malattia. Goble. Ma è il motore di ricerca che sta parlando, Clara. No, perché non ce l'avevo importato, ma non metto sui preferiti. Ok, prova a registrare Google, oppure metti Google, non ve lo dici, ti sto Sì, adesso so. Guarda, io e la mia moglie a preparare la cena, la mia mamma. Già, è meglio comunque mangiare se verso le 9:30 lì, c'è chi si tratta quando c'è la mezzanotte, lui, per carità, sto pensare alzarmi e mangiare qualcosa. Lasciamo devo organizzare qualche panino, che dopo non posso bici. Beh, veramente è meglio mangiare questo perché la notte devi digerire, se no non c'è il tempo di digerire. Ma, cioè come c'è chi canta qua, c'è chi. Cos'è Google? Punto net, non ho ancora neanche se ci sia. Sì, c'è. C'è punto it. www.google.net. Sì, ma google.net non c'è, non lo so, come c'è scritto, io sempre .it o .com, perché sono una cosa internazionale. Net dipende dall'argomento che danno, ci sono certi siti che hanno .net, ma Google è un motore di ricerca. Ah, forse .net è la email, no, email, no. Non c'entra niente, per dire può essere la dibussuri, che è .net, può essere registrato come .net, ma Google è un motore di ricerca che serve per farti vedere tutti gli altri siti. Bene, scappa, però non fare pubblicità della Kenwood, che non lo fa. Comunque è un Kenwood GS 930, nell'85 costava 5.757.000 lire. Ah, la faccia di Rucarbonato, così tanto, no, 5 milioni, ma buffone di gente. Santiago 7, qua è Santiago 3-4, non c'è se di malacchino, Zodia. Zodia si rimuovono con le gambe, perché non funziona bene? Sì, è un buon apparecchio, però no, non mi dice niente. È nuovo, lo so, qua l'ha pagato 35 euro, fiammante, e qua è garanzia, costava 130 euro. Meno che bisogno, questo cellulare qua, c'è quella elettronica dell'85, l'ho fatto guardando, c'è stato un sacco di anni conservato, ci sono apparati per macchina, cazzo, da 100 watt, della Presidente, da 100 watt, 2000 canali. Cappalappa, è la sintonia continua. No, non so se è la sintonia continua, però cazzo è micidiale, cazzo, 2000 canali, 100 watt con 6 potenze, cioè, regolabile in 6 potenze. Amore Bighele. Io sono la base neonato, questo Super Pantera, 240 canali, due bande, poi Super Pantera 1145 da 25 watt. Amore Michele De Robè, ciao Luca. Allora. Io sono la Fainetti, 2000 canali, AM, FM, LSD, LSD2, CV, 100 watt di potenza, RF Game, Roger Vitus, Clarif, tutto quanto va di sapere. Sono apparecchiature belle, ma sono solo monogattero, vabbè, li utilizzo ugualmente, ma non fa. Non senti a Luca, Flipper? No, questi sono apparecchi finiti, non è roba da rame, però cazzo, metterti in macchina un apparato portatile anche con me, che è assurdo. Eia, adesso non senti a Luca, Flipper? Adesso quando lo? Adesso no. Non senti roba? Appena, ma basso proprio, l'altro giorno sentivo benissimo, ma certo, blu, cosa l'ha fatto? Luca, ma lui a me mi ascolta? Luca, mi ascolta a me? Ho messo, adesso due, facciamo due. Quindi che costi? La Toia! Ho capito due, facciamo due, così ha detto. Ha detto Toia, e ti ascolta, sì, o trovi blu. Io proprio non voglio capire niente, tu bene lo senti, va bene, visi da te. Arriva Delta lui, vicino alla VDVT. Esatto, cazzo, io sono dalla cabata di Zappa, non ho capito, sei molto più vicino tu. Dove ti senti vicino? Ti ascolta Claudio, non ascolti tu. Le matrici antenne avevo con Claudio, la matrice da 32, ho la stessa posizione, io sono nascosto dietro lì. Cavagava. Tu te l'hai parlato invece davanti. Io sono libero, la zona di Anghera, tutti i paesi, Russi, Sissi, Usili, quelli ce li ho tutti belli puliti. Però la zona destra, verso dalla Tedosse, dalla Budi, verso sotto, lì io ho copertura, no? Cioè deve essere qualche malattuato che mi copre. Paga, andava. No, io già l'ascolto a Luca, così, e viene avanti a Buru. E lui detto poco fa, quello piccirillo non l'ascoltavo, io l'ascoltavo bene, arrivava anche a rotto qua. Ah, capo, è vero. Ma mi avrei che altezza era? Perché se io non ho QRM, qua li sento anche da muro, tranquillamente. Sì, no, vabbè, muro è già vicino. Quello lui dice, era attaccata, no, già lo sentivo abbastanza bene, non fortissimo, però era comprensibilissimo. In realtà quando mi porto un lavoro di curio di antenna di ricezione, vediamo un po' che ascolto anche io. Ecco. Avanti, Black. Non si capisce, non sono blu. Sei troppo amplificato, si comprende un tubo. Scappa. D'accordo, ciao Luca, ciao Roberto. Ciao Mario. Ci sono i picchi negativi, c'è Mario. Ciao Mario. Come mai ci sono questi picchi negativi? Non lo so. Come la positivi? Fischia a vedere. No, sei negativo qua. Confermo, sempre negativo, Mario, sempre solito a cantare. Anche io l'ho fatto. Cappa, ma la radio com'è? Ma è meglio come c'è entrato, se ho commentato ci vorrà di un coso. Unione. Mario, dentro... Dentro un bauli. Esagerato, dentro un bauli. E così va meglio. Ho capito. Comunque la radio è molto amplificata, bella, forte. Va bene, Mario, va bene. Avanti, Roberto, tu come la cucchi? No, la radio è buona, niente da dire, buonissima. Però ti fai un passaggio, anche qua mi sembravi negativo anche adesso. Non so cosa dirti, quando mi sono fatto di cosa ha detto Mario, ripeti, scusa. Ho detto che qua me ne segna positivi, lago quando modulo alza. No, no, no, qua sta abbassando, invece, chi riconferma a Luca, Luca così è. Che è negativo pure qua. Ah, vabbè, là. Comunque se va bene alla radio, va bene. Ok? Sì, la radio è l'ultima buona. Ma non sa che faccio. Ma quello lì è il microfono, non ci posso fare nulla. Cosa, non è 300? Scappa. Non ce n'è, è un microfono che non fanno più, ma è il migliore che c'è, è una bomba il microfono. Scappa, scappa. Ma lei con l'hai disattivato? Che cosa? Scappa, scappa. Allora, vabbè, cosa mi dici? Cosa ti sembra questo giocattolo con questo microfono nuovo? No, il microfono è bella, bella piena la voce, bella naturale, cioè naturale, cioè non ci sono né esaltazioni né di alte né di basse, è bella neutra, diciamo niente da dire. Diciamo, non è che c'è il confronto col portatile, adesso sto ascoltando dalla palazzo grande e con l'alimentare qui siamo, quanto parlante del cielo, però la voce è molto chiara. Gaffa gaffa. E tu cosa mi dici Claudio? La radio va bene o va male? Gaffa gaffa, sono contento, là. Anche da noi, là. Sono la faccia che mi stanno chiamando. In anonimo, alla Repubblica Sarrani. Oh Luca, guarda con questa adesso. Devo guardare. Il segnale. Ah, sempre stabile il segnale, non è più 20 roba. La radio è aumentata, non uguale, ho provato a come vale la pena. Guarda, 1, 2, 3 prova. Prova, 1, 2, 3 prova. Ciao, no, anche va bene. Faccio così, dai, lascio a 5, dai, meno di 5. E porta la radio, lui lo voglia. Ma in questa radio è più alta o più bassa, così sono i confronti. Diciamo che Mario il segnale è più forte di te. Mi torna. Vaffanculo, non rispondo. Lì siamo, una roba più o meno. Ma ripeto, non è 300, non c'è un microfono. No, no, sto parlando se come livello di radio, è più alto lui o io? Diciamo che lui, non so, se risentire a Mario devo risentire a te, vediamo un po'. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, brava, brava, brava. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Guarda più forte quella di Mario. Due più piena? Allora vabbè, lui adesso mi sembrava un po' ostacolo almeno rispetto a come l'ha portato prima. Perché ho avvicinato un po' di più il microfono. Ma se lo tengo lontano mi hai sentito pure mio figlio Cecile. Guarda Mario, continua a dire che il 1300 è un simo microfono. KK, sono contento. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che quando schiaccio la portante si sente quel click brutto della plastica. E vabbè, che c'è troppo sacco? Quando parlavi, guarda la futti, c'è bene, non fa quel... Va benissimo Mario. Sono contento che ti piace questa radio. Oh, ho visto che piace anche a Claudio. Leva 300. Davide, una duccia sì. Un po' quelle duccia là, chi mi cura a caso, e quando esce una giocata è freddo. Ah, Roberto è sparito. Come? Ma tu ripreta Robè, ma ne hai pure mangiato. Grazie a tutti, sicuro, oggi dici, le battaglie della fantasia da Ruaco, non l'avete sentito? No. Strano, ecco, ma che non l'avete parlato sopra di me? Non credo, Quando stavi parlando della torta, era giudizio a Mario, lui ha detto che c'era figlia della cura con caldo e freddo, io ho detto, le vatte rubato quella contagiata. E poi io non ho sentito niente. Guarda che tu arrivi forte di me da Mario. Non arrivo più forte io di Mario, gira. No, più forte di me era Mario. Dici? Lui si dice Mario, bro. Sì, tu, ma come faccio a arrivare più forte di te? Ah, dove te l'hai detto? Mario! Dipende in che apparato sta usando Luca, se usa non il Midra, ma l'altro ti grilla qui da me, io parlo qui da me, anche perché lui è molto più vicino ed è sopra di me praticamente, tutto lì, altrimenti no. Vabbè, normale, cazzo, lui è quello che la distanza che c'è tra lui e te. Kappa, lui è su questo quasi mai, è su un modello dolore micidiale, altro non c'è proprio. Ah, ma si cosa roba è, Mario arriva più forte di me a terra, eppure lui è più vicino. Dipende, adesso per dire che più forte tu, Luca. Ma dipende la cosa, la baracchina dai watt. Io sto usando 5 watt, 6 watt mi sembra, fai 7, fai 10, avanti, non mi sono desi, Prova tu Mario a vedere. Guarda, ma come mi ascoltate con questo? Uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. Oh, eravate fare, mi siete arrivati a Vicenza. Vissola. Io sono più vicino di te. Mi la vedo, se entrate giù, me lo entrate di là. Io sto usando 8 watt, mi sembra il baracca sto qua, il Midland. Non me lo ricordo, mi sembra 8 watt sono. Il Midland? Io sono il Midland adesso. E qui da mettere 3 watt, 8 watt. Ah, boh, non mi sembra che erano 8 watt, 5 watt, non me lo ricordo, era una bugia, boh. Ma non mi ricordo cosa dicevo. Il Midland ha 34, il mobile come parcheggiato, l'altro parcheggiato, l'altro era il mio, quello che era in concessione. Cappa, allora quello dice che muore da 48 fino a cui 3 watt e mezzo, esagerendo. Poi dice che tieni 3 watt e mezzo, non lo so. Luca, gli stoga pure. Luca. Luca. Dimmi. Come ne ascolti con questo microfono? Sempre bene. Questo non è l'M300 però, eh. Sempre bene. Ma fa lo stacco fa. Il K è il tazzino che è un pochettino così. È un microfono ben vecchio questo. Che è uno di tavola. Cappa. Abbiamo visto la testa dal tavello. Però adesso non lo fa più il rumore. Però faccio un casino e ti copriva pure la modulazione. Aspetta che c'era qualcuno sotto, avanti. Ah, io lui, io fa un macco. Allora, scusami, chi se mi conta? Se mi conta, c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, a quello a continuare levo. Cosa sono stato? Eh? Sono quel zino. Ho capito. Sono quel zino. Amma se tenere l'aria. Siamo altro, come è stato altro? C'ho un crepo, sono a casa. No, domani in questo comunista per il discorso, al massimo per il comando. Si è andato, amare in peggio. C'è un segnale 7, buono come segnale, non è... Non è uno dei migliori, ma è buono. Ma radio proprio come hai, Ma io si sente la tua radio. Luigi? Avanti. Luigi? Avanti, chi è? Roberto Quadrato. Dimmi, tra me e Luca come arrivo io, un riferimento? No. Come segnale 5 sei tu, radio buona. Il segnale del 5 segnale. Luca Lima. Ehi, non so come sei sul basso. Luca, fa quanto sei tu. 1-2-3 stella, non arrivo io, di radio di Santiago. Come ce l'hai? Spiega lui, con te ce l'ho, quando arrivo i segnali io, dove sei? No, sembra sul suo fondo, il suo segnale adesso è 3, giusto, la radio è buona. Il mio è 3, il suo è 5? Via. Cappa, questo, mi vedo dove sei, a Uzi? Sì, però si lo vedo fino a Milano là qua, sta più, sta un po' più alto. Comunque, lui? Anzi. Tutto il Santiago 95 da me arrivi, avanti a problemi l'antenna tu. Ah, per quello, perché il segnale tuo è buono qua, no? La radio è un po' bassina, però il segnale è buono, 95. L'antenna che posso fare. E Mario Manso come arriva invece? Solo non lo sento. Mario, fa quanto? ascolti in questo passaggio, guarda, 1-2-3, 1-2-3. Signore 5 era di fuori, giusto? Sto contento. Ma vedi Luca, lei non tiene davvero una posizione buona, l'ho detto, lei è di più distante di me e arriva come me a ordine. Dove ti chiaro, beh. Posso. Aspetta che cavolo, che cambio l'altro, voglio vedere se è nota differenza, qual è lui? E a te Mario come arriva lui, Santiago 4? Capo della Antena, mi hanno fatto proprio passare, vanno per vedere se ho un contatto. Non ho detto, non è che ti ha applicato la cacca, ma non lo vedi. Questo sera che ero fatto il piatto e se fosse la va. E adesso i controlli sono più severi, adesso stanno facendo un sacco di giri perché c'è troppa gente particolare, ragazzi. Sì, no, sono la mano, la mano è quella, c'è di nuovo. Io quando la porta c'erano i miei figli. che sono sempre colpito su di esso. E poi non mi ha fatto di guardare questa cosa, non mi ha fatto. Quando stavo dicendo, non me lo ricordo più, mi sto facendo male la radio. Come stavo dicendo, fammi una cortesia, già che c'è il computer, cercami Telstat 140, come se si dà, come si dice, l'istruzione, la Fayette Telstat 140, Luca, Gatti, come marito, ma non mi ascolti con questo microfono? Benissimo. Ti piace? Quello di della Intec. Va benissimo. Adesso non si è stato rumore almeno. Kappa, già va bene. E la radio ti piace, sì. Ma quante radio la sintoniamo al barombarato? La mi chiamate così. Quando me la fa. Non si è sentito poco che ho detto. Ha fatto qualche rumorino, Mario, adesso. Ma è il rumore del tasto, non è roba che è della radio, perché una volta che è premuto poi il rumore non lo fa più, lo fa poi quando arriva il rimollo. Sì, anche il mio lo faccio, ma l'ho messo con le frasi per conto che c'è messa la cosa. Parla Mario. Guarda, 1, 2, 3, prova. Adesso ho sentito anche la tosse di mio figlio. Ma ci vedono anche i bicchieri attivi, però. Vabbè. L'importante è che la radio sia pulita e che non ci sia nient'altro, là. Cioè, va bene a te. Io sono sempre di quel parere che per me non va bene. I bicchieri devono essere fissi o positivi, non negativi. Da 9:20 alle 9:15, cosa da dire che si scende bene? Sta scendo bene, Mario. Perfetto. Nessun problema. Ma io non sto parlando uscendo bene o uscendo male, sto dicendo se la radio è buona, se è perfetta, se che non si porta dietro rumori, che non si porta frusci come prima, dai, che quando schiacciavo la portante era tutta frusci, coso. Io sto chiedendo se la radio è pulita. Quindi sì, la radio potrebbe andare, segnala che non va. Ok, per me va tutto bene, non c'è problema. Avanti, Luca. Kappa. Oh, via. Adesso mi vado un po' di Zelig. Poi una mezz'oretta. Ma io, perché? Sei allucinato, cioè, il presidente Jackson 299 euro. Se ti dico quanto costa la terra in America. La ultima, perché non ci sono né fischi né nulla, a parte che sento io, non c'è bisogno che me lo dicano gli altri, quando schiaccio il coso del PTT che fa crrr e poi si blocca, e poi lo rifà quando stacco. Ma a me i fischi arrivano positivi. Già, in realtà arrivano positivi, qua sono negativi con la testa. Sono negativi di brutto oppure, capito? tu c'hai il... con la tonotola te ne accorgi di più. Con la tonotola riesci di girare appena per quella banda, ma lì non lo puoi fare. Passano di brutto negativi, capito? Ma se fischia te ne accorgi anche da te, prova a fischiare ma... Luca! sono più furti. Che gavari. Ah, per parlare e basta, eh. Domani me ne posso fare una benzina, un 40 che mandelli. E domani hanno più una benzina in 80. E vediamo a vedere chi si mette a fuga. Tanto mi passano anche già questo, ma li faccio, vado, ah. Il salvatore rimane strabiliato, se l'ho già superato di brutto. E qui non infatti mi dici, stanotte dici di domani, mamma mia. Non ti ammazzare. E ti ammazzano sì, e ci vuole manico. È più difficile per me che per i radioamatori, perché loro non segnano una volta MCO2, capito? E loro si sono svelto a prendere i nominativi, il nome, tutto quanto, la provincia. Ma che spiega? Non ho mai computer che ce lo fa. Allora, come usare Claudio, quello del computer? Prova a fare il computer, già ne vai mancuno. Ma dove ti trovai il computer? Prima appena che gli vai, impresa a lui, devi aprire un lettere. A chi ce ne sta in impresa, perdi tutti. Dopo ti diremmo che impresa intanto non ne attivo io. Mi dì la Claudia, vedi? Non so che ci vuole velocità segnando. Capito se ci vuole velocità. Non è facile, ci vuole pazienza e l'unità abusato. E lei ci vuole un rumore, di modo che senti bene. Qua da dove sto fatto? La prima fatto di una base una pilota. Quindi sto tanto stazione quello qua. Ma non è da. Ma solo in ascolto, no? È a Londra. Capito. E io, va bene, questo qui perché cos'è? Questo diploma qui, che diploma è? Quello che c'è già io, che l'ho fatto nel 1900, che l'ho visto subito. Però quest'anno me lo faccio nel 2007, ma è della patente, ma qui a voi, me lo posso dire da ragionatore. Aspetta un attimo, leggo quando l'ho fatto. Nel 2003 l'ho fatto, avevo triste, prima di lui, però prima ho gareggiato, adesso non sto gareggiando, lo faccio leggerino tanto per mandarmi il diploma. La cosa mi dare 4 baggi in 2 logo, l'ho mandato, tieni. Questo è quello di ferrovia, no? Sì, ho collegato anche a quello di vicino a te. Caramba. È già bello. Quando è la partenza per farlo, è tempo, ci vuole un po' di tempo. Allora, adesso vediamo un po', quando prendo la partenza gareggio con quella là, ti rifiuto male da lì. Anche Salvatore è carino, ma Salvatore l'abbiamo fatto da un lato. Tutti due ragionatori sono tutti due salvatori, quello di vicino a te e quello che l'anzio mio, quello lì lo stesso lo sta facendo, ma l'ha già rado, l'ha già partiti, anche quando lo voglio. No, io sono un salvatore, come si chiama? Salvatore, come si chiama? Quando era giocattivo, ero bimbo, come ti ha visto come c'era il regolamento, ha subito mollato, già stavo di sicuro io. Ma poi dove ti dire, c'è la consola che come è con lì? No, una sola non devi spedire, se vuoi le puoi spedire a tutti quelli che con lì e ti mandano la CSL loro, ma io non me ne posso nulla. Ma mandi una solo a chi organizza, diciamo, va? E allora, al manager devi mandare la CSL, no? Il log devi mandare. Ma ragazzi, sì, è felice. È all'ombra. Ma dopo un po' arriva il coso, il diploma. E che valore ha questo diploma? È, diciamo, una soddisfazione, ma pure ha qualche valore. È una soddisfazione, c'è anche il primo per quello che arriva prima, seconda e terza nel Bari. Io sono arrivato a nono, il primo l'ho fatto perché è successo è quando stava finendo il diploma, praticamente mio padre ha fatto una cosa che non doveva fare, si è mancato, e quindi ho mandato quelli, lo fottista e basta. Se no era di Dublino, mio. E gli hanno dato l'idea che sta per collega non mi sta più. È un bel pacchetto ci vuole, quella senza dubbio. Ma vado mando la QSL a Salvatore, che da amico mio. Quando vi la vedi, mi ho fatto anche le QSL, non fate. Quando la vedi la fissa. Sì, io ce li avevo, ma non so dove cavolo me la ficcata di viaggio. Io ce l'avevo la QSL personale, c'era la botte, l'antenna sopra la botte, una gran play, poi ce l'ho io che scivo dalla botte col microfono in mano e il baracchino in terra. Sì, siamo stessi. Ma questa l'ho fatta tipo quella radio materiale, no? Per gli essere più VL, non è per i DX, per i DX sono diversi. Ho capito. Come? Andava bene. Vabbè, c'è la fotografia, sarà con le... sarà col coso, col numero, il numero di cose di essere più VL. E gli ha messo me la bandiera sarda, il comune di Sassari, la zona del comune di Sassari, nominativo dietro gli ha messo tutti i dati che devi mettere, no? Anche segnale? Paolo. Luca. Mario. Pronto di me. Hai presa? Caffagaffa. Guarda come sto uscendo ora. Se picchi sono positivi o se sono negativi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ma sono positivo. C'è altro, c'è la frequenza che non stavo ascoltando. A Tavino c'è. A Tavino, dammi un controllo tu, per favore. Guarda se sono picchi negativi o positivi. Che sto provando questo... questi microfoni nuovi, puliti, e così vediamo un poco come esco. Buongiorno, Mario, da 9 a 7 sì, negativo. Ma negativi però, ma quella radio mi segna perché negativi, ma mi stai preoccupando. Ecco, va da 9 a 9 a 5, è così il mio, va più avanti, non più indietro. La 9 a 7 con questa modulazione graffiante e strana che sembra andando laterale. Guarda ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, prova. No, sta facendo tutto anch'io, ma ce l'ha negativo, ho ragione. Al buio magari mi dava l'impressione che ha messo al lato, invece no. Già, mi sto preoccupando, cazzo, la radio leccia è una favola. Attento, accende la luce quando ti chiede il controllo, cioè non sembra che siamo noi che abbiamo controlli sbagliati. Non va bene Mario, non va bene. Qua sei da 9 più 10 a 9, addirittura. E la radio sembra in FM. Kappa kappa, non so cosa dirti. Sono provato un po' tutto, capito? Niente Mario, questa è in doppio giorno che ho con la radio, le prove le ho fatte prima io, capite, le ho fatte prima io, e se non siete dicendo che l'ho presa, non l'ho tirata a terra perché è bella, l'ho messa da una parte, non la voglio neanche accendere più, non so cosa dirti, non esce in AM con la radio, è inutile che Antonello diga e scoppia, capito, con la radio in AM non va bene. Scappa, scappa, non vedo cosa sia, perché la radio ha migliorato come radio, io sto facendo, e c'è ancora il problema del segnale che mi avete detto che c'è questi picchi negativi, tutto qua. Abbassa il cambio perché magari è troppo alto, non sto facendo negativo per quello. Non è quello lì, no Natalì, non è quello lì, no, non è quello lì, non va bene, scheda di AM con la radio, non era, ce l'ha, ma è come che non ce l'abbia, non ha nessun'altra regolazione, è una radio per modulare in banda laterale, punto e basta, è 30 anni che faccio radio di quel tipo lì, ma insomma, la prima volta a me la fanno vedere in giro da 707, Diretta di quella radio, la M non va bene, avrai sempre problemi, sempre, sempre e sempre. Capito? Ci permette la mano Antonello, chi ti piace e chi non ti piace. Io ho contattato e quella radio non va bene. Punto e basta. Ma che radio è? 707 di Stefano, che c'aveva Stefano, grazie. E la peggior radio gli ha fatto la il 7B, che il 7B si romagna, Vizio. Ah, non va bene la 707 la M. Vabbè. No, no, non dico più niente. Ma siccome qualcuno vuole diventare maestro nelle cose che non lo può essere, e allora metti il baracchino, finisci molto molto meglio, vero che a me. Ma non molto molto meglio, no. 100.000 volte meglio, Mario. 100.000 volte meglio, esci la M. Per usare quel cesso del radio, quello è un ricevitore per te, mio blu. La M è un cesso. Scusa il termine, ma è un cesso. Va bene. No, io stavo facendo questa prova perché è stato pulito il microfono, è stata fatta qualche cosettina così e niente, tutto lì. Mario, tu puoi pulire il microfono, puoi fare qualche cosettina così, puoi fare qualche cosettina con la radio, l'M non va bene, punto e basta. Questo è, te lo dico col cuore, capito, non perché ti voglio male, te lo dico col cuore. Un cesso quella radio in M, perciò io ti sto dicendo che non l'ho tirata a terra, perché esteticamente quella è più nuova di quella, sicuramente, capito? Non l'ho tirata a terra, e quindi è lì, capito? Perché se no l'avrei presa e buttata nella mondetta, perché non serve a niente, capito? Non serve a nulla, nulla, niente in AM, in banda laterale, vai e parli in banda laterale. Capito? Quando devi fare qualche collegamento, ma la sala piace di quella, allora è un altro discorso. Ma la M non serve a nulla, vero sotto il re, è meno di un baracchino, capito? Perché un baracchino con 5 watt, gli attacchi un amplificatore esce bene, quello più aumenti, invece di aumentare ti toglie tutta la modulazione e ti si abbassa il segnale tutto negativo. Ma è anche in quel RT in banda laterale quella, no? Ma certo che la vuole in QRP in banda laterale, e non sarà convinto di ribogliare una radio da 20 watt in banda laterale. Oh, lasciate perdere, è una radio di 20 anni fa quella, no? A parte il fatto che il decamitre che non toglierà mai i piedi, mai e poi mai. Una radio in QRP, ho provato anche lì con il 718, io QRP, però manca un confronto con Guido Cata, Guido Vageo, 200 watt. Una 80 metri, una bomba, perché l'ha usato Salvatore Cata, ma quello quando era una bella. Ma quello invece, sono una sintonia continua e hanno un altro tipo di tecnologia, ma se io parlo con sicurezza e dignità, capito, nei confronti di Mario, perché io non voglio illudere nessuno. Quello è una radio che l'ha, va bene, lui può fare tutte le prove che vuole. Capito? Attacca il microfono, attacca Alice e Tegliati. Se abbiamo provato a te fanno l'M1B8, il suo microfono originale della Iaesio. E faccio ancora due chippu, prima la di due. Ah, è una radio QRT quella lì. Già la conosco già, quale? Il 707. Quella nera che c'è il coso delle memorie, vuol dire? No, il 707 quella... vabbè, va, all'incirca. Capito, all'incirca, comunque è così. Così non è Mario, attacca il baracchino, attacca. Esci meglio, allora sta Claudio, puoi fare come vuoi. Non è quella che c'è al banco delle memorie, qua. Ehi, c'ha l'unità delle memorie aggiuntiva. Io non ho neanche preso di quella perché, come ti ho diplomato, è quella impressione. Io ho la corbatore sua, l'FC707, la sua colonnina. La mezza linea, dai, manca solo l'unità delle memorie, ma non mi interessa, tanto non mi tratto. La colatore pure ha trovato a Franco Delta 1, cosa mi vai, per carità di Dio. Guarda, vabbè, lasciamo perdere. Viene a lampadi, Dai, dai, dai, lo prendo la pista e riprendo. Ah, rientrateci. Sì, mi sono abbastanza per la fastidia della mal di testa, Ma è scappa. Ma è un'altra cosa. Anguella. oggi a San Franco, non ho voglia. Ma che c'è, giornali di notte è entrato? Entra! Vabbè, ma la sicurezza ce li ha. Emilia! Allora, e cosa dico la normativa? Riferimento a quello che gli ho detto io? Che ha ragione lui? Perché non scatta il barabà, capito? quello. Ok, vabbè. Quindi da così, da questo passaggio, a questo altro passaggio cambia allora. Allora, se tu adesso hai fatto un passaggio un pochino più lungo, no? Quindi quasi 25, adesso sei 19. Ho capito. Quindi quando praticamente parlo e sale, è normale, normale perché sto scaldando. Eccolo qua. Va bene. Così quindi è 9 più 25, da 9 è 19, a 9 più 25 sale. Così è fino. Prendono facendo passaggio lungo, così è. Ciao, positivo, adesso sei proprio 25 sale. Ho capito. I picchi sono sempre uguali, fermi, stabili, la radio è sempre uguale. Confermi. I picchi sono in positivo. La radio è buona, la nota presa, perfetto. Va bene così allora. Non ci sono problemi, funziona tutto. Mario, Marcel, avanti, cambio. Hai cambiato radio? Mario ha bruciato tutto. Poi non ho pesato il butto, no, di fare becchini con Chili. Soffrendo i ribrugli, il tecnico di trasmissione. Non sa dire, devo dire tutto quello che ha tutta terra, minimo. Cappa, cappa. Natalia, a te invece con me, vabbè, tu sei con il cracco, stai usando il baracchino. E quindi no, non si vede. Non si vede. Ok, comunque fra, ho cambiato quella affare là, quello che c'era davanti, quel condensatore a coso che c'era davanti all'ingresso del marmore, adesso picchia forte, adesso sale di brutto, sale di brutto, sale di brutto, muy bien, muy bien. Ok, Natalì, l'altro, vabbè, non lo porta a casa, non mi puoi dire quanto era? 9.30 sì, qua. 9.30 allora è più che soddisfacente. Con 80 watt di pilotaggio, 80-90 watt di pilotaggio, dai, va bene, è ottimo per la truppa. Questo servirà per fare qualche collegamento ogni tanto. Allora chi sei rimasto? Mario, non riprende, Roberto Quadrato si è allontanato, Luca sta guardando Zeli, il Tino, le pregiaresse, Natalino, riprende Franco allora, dai. Aspetta un attimo, fai un passaggio adesso, un attimino. Guarda, se hai la possibilità di commutare sull'altra radio, perché ora quasi 9.40, ti arrivavo a te, quasi 9.40. Adesso vedi un pochino quanto è salito, se è salito di più. 9.41, sì, claro. Poco anche da te aumenta poco anche da te, troppo vicini, a poco preso da 7 a 9, 9, 5 quasi, va bene, comunque già si vede la differenza, da prima per lo meno che più distante si è notata, da 9, 19, 25, modulati va più che bene, ok, avanti Gianni, ci sei? Io sto facendo la mia cosa. Parlate, che già ascolto, che sennò poi mi disturbano. Il mio segnale non lo puoi vedere, no, già tu, lì a casa, non lo puoi vedere quanto è attaccato. A me vuole 19, il segnale è la 9 per me, capito? Minchia, a tu, sono venuto al salario, ma ha detto che era perfetta, mi sembra un po' troppo male come segnale, sono 9.25, 9.19 da mattino liscio, è 9.25 attaccato. Sì, però vedi, si fa la proporzione, a me si vede la differenza. Si vede sia la differenza, ma tu c'hai la gemella della mia, ma non è quello il problema, capito? Però 2009 mi sembra un po' raro come segnale, un po' troppo raro. Gappa gappa, Natalia 9.30, vabbè, è questione di temperatura di smettere, non c'è niente da fare.

Ciao, buon pomeriggio, buon tutto, ci ascoltiamo alle prossime. Ciao, ciao, vai Franco. Ciao Matarì, buonanotte, 751, sei al QRA e se la riascolta le brosciverine. Ciao Matarì, buonanotte, riferita. Ciao Matarì, buonanotte, tante belle cose alle prossime. Mario non si dà vinto, vuole provare fino all'ultimo, ma non lo merita. Attacca quello che piace a me e vedere che no, nessuno dice che sta facendo male. Allucinante i picchi negativi che c'ha, visti gli IT, no? Sì, se faceva la 9:29, video. Allucinante qua, ma ne vai in protezione il ricevitore. La 9:20 anche a me scende addirittura a meno di 9. Con questa modulazione è tutta compressa, tutta incasinata. Vabbè. Va bene, va bene. Io no, non so cosa dire. Quello che devo dire l'ho già detto. Guarda una cosa allucinata per prendere con la radio, per carità. Va bene, e quindi fra, tutto a posto, sì. Sì, capo, adesso abbiamo avuto una bella discussione, però abbiamo risolto il tutto, anche per altre cose, tutto a posto. Va bene, a discutere si discute, figurati io, manco il 13 febbraio, stamattina, cioè ieri, ho ricevuto una telefonata e rientrare domani. Ho detto, ma lunedì, non domani. No, no, domani mattina. Domani mattina perché c'è un casino di Gesù Cristo. Tu immagini se ci siamo incazzati. Capito? Ma per fatto c'è la domenica tranquillamente a riposo, non mi sento ancora bene, però domani mattina sono costretto a rientrare. A chi vede un casino che non si comprende, non è un orgoglioso, proprio totalmente alla grande. Adesso vediamo domani mattina come la situazione, secondo quello che vedevo, faccio le relazioni, mando a casa e mi metto a mandare malattia, oggi qualcuno sta a posto lavoro, avessi bisogno di lui io travagliando. E ma la cosa fa che così, anche io un casino mio avevo preso. Un casino ma no, no, no, no, questa è una cosa qua, non metto di più. Sono mancato 2 giorni, ma qua, e sembra che sono mancato 2 mesi. Infatti proprio il medico dell'Inps mi ha detto, ma lei è sicuro di riuscire a lavorare? Ho detto, guardi, purtroppo devo rientrare, che stiamo molto attento perché il mio rapporto a lei è fregato, non se ne alza più, questa volta non se ne alza più. No, scusa, che provo a fare? Cioè, perlomeno, non so, voglio un po' tu. Mi sei considerato che si è spalleggiato, continua. Quindi voglio rientrare domani, tanto se ti peccato lo posso fare lunedì di nuovo, capito? Perché sta un po' già alle 7, quindi la mattina non rientro, mi controllo tutto quello che c'è da controllare, secondo quello che vedo, faccio prima le relazioni, tutte negative, le mando tutte a Cagliari perché le buco io, capito? E poi mi rimetto malattia a voi, si vede che ci riesci, capo sembra che ci sia io in questa azienda, no, ma io non penso, ti dice a uno in grazia di Dio. Tutti me ne previsti, tutti al Pascolo Bravo, capito? Tutti al Pascolo Bravo, ma il Mombrano è un accidente, nulla, c'ho tutto quello che ho lasciato da fare, tutto. Allora, ecco la vera, 2 mesi sono mancato, come l'ho lasciato trovato, ecco, è che... Ma è allucinante, cioè, no, mi vergogno davvero, mi vergogno davvero, che ho delle colleghe che si rivedono, mi vergogno davvero, Fabio mi ha maltrattato un carissimo collega, molto bravo, disperato. Marco Claudio sono disperato. Vieni domani mattina, saliamo assieme, ci controlliamo tutto, c'è cioè, un casino di Gesù Cristo. Cose fatte al contrario, fate male, cioè non dobbiamo dire, cioè io lo so Marco Coppino. Marco, vieni tu, vediamo un po' tutto assieme, poi dice vieni tu cosa vuoi fare, però domani mattina vieni perché ci ho disperato. Lei sta venendo, leggermente nervoso, capito? Brutto, brutto. Sì, anche dove lavoravo io, dai. C'era una collega che non voleva ora che rientravo perché, ma a parte che passò, gli prendo la disperazione, non so, vabbè, non è competente in quel campo lì, quindi c'era il numero, dai. Okay. Però qua la gente prende il mio stesso titolo, capito? Hanno il mio stesso ruolo, il mio stesso titolo. Se ti mettono a sostituire una persona che è malattia, che purtroppo io in 10 anni civici mi sono assentato 3 volte, questa è la 3ª volta. E quindi se veramente io ho necessità di assentarmi per problemi di salute, mi è possibile che una vigilia uno in grado di poter fare le cose che faccio io, o seguire le cose che seguo io. Boh, mi sembra assurdo, cazzo. Mi sembra proprio assurdo. Ovvero c'è meretrismo da parte di chi mette la gente. Oppure non so che se lo faccio una puttana, di che io sono qua a sostituire, cosa me la puttana di fare quello che fa lui? Faccio l'indispensabile, la resta lo lascio senza fare, capito? E sto dicendo, guarda, scarica a te, se mi continua c'è un casino di Gesù Cristo. Un casino di Gesù Cristo, cioè, fate come la mandare a marito, come la situazione, e poi si vedrà, perché adesso mi sono stufato. L'altra volta, la stessa che mi sono amato, sono rientrato, c'erano 8 cartelle di relazioni da fare, 8 cartelle. Non mi sa dove sono riuscito a fare una cartella di relazioni, capito? 8 cartelle. E me le ho dovute portare a casa per mettermi tutte in ordine. Guarda, lascia stare, mi sa che già l'ho visto come lavoro, è tutto quello che faccio. Letture, balle, polvere, apre, chiudi, tira, molla. Tutto abbandonato, tutto a posto del bravo. E quando cominciai solo mai con quelle pompe e clare che c'erano là, mamma donna, proprio che perdevano acqua, depuratori, tisso. E tu immaginati che quel motore che hai visto tu, quello grande da 300, in quella sala che siamo andati, in quel impianto di sollevamento ai frutti, quel motore si è bruciato, si è rotto un cuscinetto, siamo passati al controllo, hanno sentito rumoroso, non erano fermati, hanno invertito l'altro motore, no, l'hanno lasciato andare. Siamo andati tutto l'indotto, ha bruciato tanto voi, guarda, ha fatto un mare di danno, un mare di danno. Beh, poi dopo che siamo andati assieme, che quello che mi segnalato, ti ricordi che stava pisciando la con la prima stoppa. Se poi ti ho detto, quel motore lì parte, prima o poi, una volta che ha preso la prima stoppa, l'acqua trae, se la trascina automaticamente dentro l'abbuttimento. Io infatti, quando sono rientrato, ho fatto cambiare i cuscinetti. E ho fatto cambiare i cuscinetti, e ho fatto mettere la corda grassa e la prima stoppa nuova. Capito? Allora mi sono in un mese non ho fatto nessuna manutenzione, perché i cuscinetti vanno ingrassati ogni 2 o 3 giorni, perché quelli girano 24 ore su 24 le pompe ad alta velocità, e certo i cuscinetti ad alta velocità che vanno ingrassati, capito? Un cuscinetto si è acceptato, chissà di cosa dite se lo stesso, guarda, ti dico un macellamento, ma domani, via, domani le volte si intende a ragionare, si intende. Quelle montano con le pompe lì, montano e quei cuscinetti a rulli. Una volta le scaldano, le escono i rulli e spacca 400. Oh, qua si muove, devo mettere un po' di legna alla stufa, mi attento, 5 secondi, Ragazzi, già siamo qua. E infatti, ne sono uscite le ghiere, ne sono uscite proprio le ghiere, capito? Ma dico, passo ogni mattina a fare le letture, ti fai le letture, vedi che il motore è rumoroso, tu in vetro, c'è l'altro di scorta, no? Fare la segnalazione e poi ci mette a posto, nel frattempo stai lavorando bene, no, tutto è casino. E ma come la Masano, vedi com'è la situazione, avrei ci siamo un po' che travagliamo. Ma lo succede così, se ce ne brucia uno di quei motori, voi siete alla casa, perché se poi si brucia un altro, non ci avete nessun motore lì per andare. E infatti, è ancora fermo l'altro. Capito, stiamo andando con l'ausiliare, quindi figurati. Anche il suo si piglia la briga di fare i gossi, vedi vabbè. Domani mettiamo a posto le cose una volta per sempre, va. Chi ha voglia di lavorare, ma lavorare. Chi ha voglia di giocare, prendete di culo, i calcelli sono tutti aperti. Dalle 6 alle 2, i calcelli sono tutti aperti. Cioè, praticamente questa gente qua non fa neanche le letture. Fa le letture, magari non segnalano quasi nulla. La vita la segnalo a me, c'è libero conduzione. Io se c'è una mamma io lo segno libero conduzione, poi me lo porto avanti, no? Perché ce l'ho segnato, quindi so che me lo devo fare. È chiaro che se non segni niente, passa il conduttore, poi le passa un altro, si passano i 1000. Quando se non ci sono io, li passano i 1000. Capito? Invece quando sono io, il mio compito lo faccio io. Quindi man mano che vedo anomalie e lavori da fare, me li segno. E poi me li metto sull'ordine di servizio e me li faccio, no? E invece lì non segnalo niente, e quindi passano, prendono le letture e poi si mandano. Praticamente non viene assegnato niente, nel suo problema, non lo facciamo uscire, sì. E c'era quella, quel depuratore non stava andando per il sistema. Beh, ma non hai visto, non hai visto che non vai passi, quindi, cosa vieni qua? Nulla, niente, niente, niente da fare. Un attimo viene un mio collega a prendermi e andiamo, facciamo un bel giretto, un bel controllo, tutto, mi porto tutta la documentazione, passo prima l'albero, mi prendo tutte le relazioni, mi controllo tutto, segno tutto quello che c'è da fare e poi ci manderanno avanti, cosa da arriva? È veramente vergognoso e impressionante. Allora, la chiusa. E anche nel mio campo è così, mica, non tutte le parti così, se ne frega, no? Non li ho tutti nulla, cioè non c'hanno nessun interesse di fare le cose, non li ho tutti nulla, ecco. Il lavoro come lo lasciano, tutto lì, nessuno se ne frega, quella dice a tizio, che sia a casa, e tutti gli altri sono a tutti, chi sopra, l'oppa. Kappa, Mario, riprendi. Non so se mi senti con questa antenna, che non è che vada tanto bene. Guarda, ci avete avuto il segnale più alto, la miglior radio che ti ho mai sentito. Kappa. Va bene. No, sto usando il dettolo che ho sul tetto per non ascoltare i rumori dei motorini. È sempre per la 27, però per non ascoltare i motorini quando passa sotto casa. L'antenna grande ha attaccato l'altro apparato. Ma questo apparato non lo puoi mettere sotto antenna grande. C'è una radio micidiale. Kappa, adesso devo staccare tutto quanto perché stavo provando così, giusto per vedere, va. Visto che sono stato rilanciato, ho approfittato. Cambio basso. Mario, qua sei Santiago 7, la radio Super 5, Super 5. Quando io tiro Super 5, per me la radio va benissimo. Addirittura c'è anche picchi positivi, tutto a posto, come se niente fosse. Questa invece è una bella radio. Quella ti conviene metterla sotto antenna e usare quella lì, perché è veramente forte come radio. Come lo senti il tratto? A me mi sta arrivando Santiago 9 e radio 5 a bomboletta qua. E guarda così, 1, 2, 3, prova. Grazie Mario, non si può. 9:25 radio super 5. 9:30 qua, 9:35 oscillante. Però Claudio De Mario, leggermente più forte di te, Mario. E vabbè, lascia perdere chi arrivi leggermente più forte, lui siamo più vicino, qua lui mi arriva leggermente più basso di te. È normale. Ecco, ma la radio, questa è bella Mario, questa è una bella radio. Che radio è? Questo qui è sotto l'Argus, questo è l'Argus. Ecco, ma la macchina fatica, troppo bella la radio. Ma l'hai piloccato con l'M300, Mario? Kappa. Io le modulazioni con la radio lì le conosco, solo quei microfoni, sono micidiati. Vedi, ma questa è bella veramente, però bella pulita, amplificata, forte, bella. Se la radio mondiale ti vuole a trattare il gatto marano, ti vuole a trattare Mari, allora per questo invece c'è una bomba. Ma chi è che dentro la tabula, Mario? Ehi, sono venuto a casa tua, mi sono messo a tabulare e mi sono messo a quattro. Mario, Kappa, sì, no, non è tutto bene, sì. Grazie a Dio, sì. Ma sono contento che tutto prosegue sempre bene, perché è meglio così, quando procede bene vuol dire che tutte le cose sono a posto. Sì, non mi dire che è metallica la modulazione, no? È molto bella qua, Sì, no, stavo scherzando, era perché volevo prendere in giro un po' Mario. Non lo so, Kappa, così mi ascolti meglio, adesso mi sono avvicinato leggermente al microfono. Mario, bella, quando dico che è bella, tu devi dire a posto. Quando dico che è bella, è una bellissima radio. Questa tonalità leggermente amplificata, con un leggero reverbero, bella, forte, chiara, pulita, non è gracchiante, no, non c'è niente da dirle in questo momento, in questo momento. Poi, non lo so, in questo momento meglio di così non si può uscire. Ma l'hai attaccata, sono contento. Sono contento che vi piaccia e che sia tutto a posto. Ma perché ieri c'avevo il PL che ha fatto di attaccare, erano un po' di soldati e riuscivo anche un po' a scariche. Oggi ho messo un po' a posto tutto e approfittando dell'occasione ho approfittato anche a collegare questi microfoni che Antonello mi ha messo a posto, la meglio pulita e meglio rimesso un po' in efficienza. Bene, va questo Mario, bene, bene, bene, non duca più verso l'uscita, no, farà questo perché meglio di così non si può uscire. Vediamo se c'è Gianni, se ti ascolta bene. Gianni, Gianni si è girato dall'altra parte. Chi è che è rimasto qua? Roberto? Beh, non è più nessuno, Franco, ripegni. Capo, figurati Mario, che sento anche il respiro da quel microfono. Capo, capo, no, ho già un buon microfono, questo qui... ce l'ho un sacco di anni, ce l'ho. Allora, il fatto è che sono guardato il PCC perché l'ho sempre buttato e non si stava più utilizzando. Ma poi per il resto ha sempre funzionato bene questo qui. Questo qui non ce l'avevo attaccato sia a questo apparato qua e sia alle 17D. Ma quel PCC che stava volato io gli avete mai? Hai visto che va bene, è nuovo nuovo. Gatta gatta. Quello io l'avevo tolto da quel microfono là, io l'avevo buttato via, l'avevo recuperato un po' di qui da quel microfono. E adesso devo cercare in officina, perché mi ricordo che mi pare che ne avevo uno di quegli M300, solo che devo cercare, quando c'è un paio di minuti liberi, provo a cercare solo là, il cassonetto lì se c'è. Gatta gatta, no, io... ho buscato uno di quei microfoni grandi che usavano, diciamo così, una quindicina, se non anche qualcosa di più, il comune per chiamare quello del personale, là, lì all'autoparco, e lo stavano buttando via. Io però me lo sono raccolto, però adesso lo devo... diciamo così, preparare per attaccare la baracchina. E quanti fili esce quel microfono? Gappa. Con quanti fili esce quel microfono? Guarda, quello del comune. Sì. Con tre fili esce. Tre ne ha, non quattro. No, quello del comune c'ha tre fili, perché c'ha solamente la portanza, perché poi andava a per chiamare gli autisti, per chiamare le persone che servivano là, quando c'era la sala dell'acqua, oppure andare in qualche posto particolare a raccogliere le urgenti gobranti, allora c'era una specie di megafono fuori, che però ne hanno tolto tutto, lo stavano buttando via, io l'ho visto, sembrava carino. L'ho raccolto, adesso devo vedere se si può adattare a baracchino. Cosa vuoi che dica? Cosa vuoi che dica? Ma come lo c'è lì? Ma basta, la scena ancora, no, non lo riprendi. Ma sono preso con tutti, anche con te, perché non mi ha fatto la vita. Io adesso una settimana, guarda, che ho le palle girate in una maniera che tu non immagini. Lo facciamo di sentire anche la bagna, mi sto fissando di sentire anche la bagna, boh. Quattro qui da Mario, che Mario già siamo provvista lì. Anche me, quando le radio sono serie e restano bene, anche la rugomma lo intendi, hai capito? Di potenza. La macchina c'è a vivo, non preoccupate, sono fatto un vita nuovo nuovo per questo potente. E tutti i lavori con il tuo. Ma fare un nuovo riguardo? Oh yeah. Antonè, io per il male che ti voglio te lo auguro, guarda, con tutto il cuore. Così si intende anche la mia, però la devo sentire come dico io la radio. Questa che sto usando adesso Mario, non ce n'è in assoluto. È la numero uno. Meglio di così non si può uscire. Sono uscito a ruotare il microfono, perché c'è anche ragione, non uso studio. Quando lo presento c'è bene, c'è bene anche con la volta con tutto l'apparecchio. L'unico problemino, sai cos'è? Arriva solo la potenza, cioè la MC con la LC. E tu non è che ci riesce, non preoccuparti. Con calma, appena la soluzione, non è che posso dire che c'è bene l'apparecchio la L, non lo dico io. Ma come? Quando io la sento, lo sai, che non ho nessun problema a dirti bravo. Però per il momento fallo usare questa la radio, perché sta uscendo bene. Quella lì te la prendi, te la controlli per bene, cerchi di fare l'impossibile. Quando hai fatto l'impossibile lì, allora ti do la mia. Non preoccuparti, adesso così, ok, ma per la lingua non è che mi faccio la natura. Però comunque, se per il momento, come stavo facendo fino all'altro giorno, con la pressione lì, esce veramente bene come il 300, e l'unico microfono va bene. Cioè, tu mi giusti, cioè la tecnica non mia, la tecnica di Mario, naturalmente, questa è la tua. A parte i picchi negativi, fa sì che i picchi negativi ci siano, però un'emozione non mi dire che ci va male con l'apparecchio, perché non è vero che ci va male. Ma io sono abituato a sentire emozioni belle, quando dico che una cosa esce male perché non la sento bella, capito? La tonalità microfonica poteva anche andare, gli ho detto a Mario che poteva anche andare. Però vedere una radio che anziché spingere in avanti, spinge indietro, è da 9:20, andare a 9 non va bene ascoltarla, capito? Quindi per me non va bene. Quando tu riesci a fare quelle tarature e allineare bene quella radio, quello è M300, io sarò il primo a dirti, Antonio, hai fatto un bel lavoro, qual è il problema? Ma per il momento conviene usare questa la radio, e quella lì cercare di allinearla e fare tutti i lavori che c'è da fare. E così ho fatto, una volta per sempre, hai capito? Sì, ho capito, grazie, ho capito, non preoccuparti. Una cosa per volta, lo sai. Una cosa per volta, con calma si mette in cinta una ragazza, non preoccupate. Una sul corpo, a seconda, al terzo, anche a quarto, al limite. Tu no, a tutti i miei, da due con cinta, con 707. Ma tu sei già compagnia, io non mi dico che vuoi essere in cinta la prima, la poi tu fai che siete gli altri, vai a fra. Non c'è problema, tanto Claudio non ci viene perché intanto capito. Quando dico che questa è una bella modulazione, vuol dire che sono sicuro che è una bella modulazione, guarda. Ho ascoltato con tutte le radio, con filtri, senza filtri, con tutto quello che posso avere, la radio è sempre bella, veramente bella. Complimenti, complimenti, bella veramente. Adesso sta la sua domanda perché ha parlato troppo, gli si è asciugata la lingua. Siamo problemi per una casa di birra, no? Poi quando siamo in compagnia già lo sai come sono io qua, non è che sia utile a conoscermi. Che adesso bisogna ricomprarla, davvero, bisogna andare a negozio, domani e sabato, quando sono stesso dal lavoro, non sono le lunghe, ma la carico una cassa. Ma che sabato lavori, Mario? Guarda, sono a mezzogiorno. Non arrivate al carabinieri da buon sabato. Vabbè, ci ha pagato, è quello che vuoi fare. Purtroppo è così. Si paga non c'è di meglio, bisogna stringere dentro e andare avanti. L'importante è che non mi manchi mai nulla, pure il resto non me la prego. Se non lo posso pigliare due, ne piglio uno e ci va avanti. Ecco. È importante che ci siamo sempre in cash, così si dice. Se mancano quelli è un problema, quindi. E purtroppo bisogna lavorare. No, io il sabato non lavoro, cioè non lavoro, ma adesso se ci andavo qualche sabato. Un paio di sabato avevo lavorato, ma per 50 euro ho messo con il capo. Io invece col sabato sera che sono andato a lavorare, che ero lì vicino a casa del Franco, siccome bisognava ultimare, ho lavorato sabato sera e domenica mattina, 100 euro. Sono a ragionare, non mi guardo la faccia, mi fa. Insomma, quando lavoro tra settimana io viaggio e tutto, Mario. Poi praticamente il sabato mi piace riposarmi. Guarda che anche io viaggio, non tutti i giorni per fortuna, però anche io viaggio, io lunedì sono sceso a Cagliari e lui da Cagliari sono andato a cosa? A Agostini, e Agostini a Sassari, col cane a pieno, c'era una tormenta che la metà bastava, è vero, e non ho mai consumato tanto da giugno, stato lunedì. E mi basta, che ce ne sta quasi 75 euro. Gli ho messo altri 20, malgrado tutto non mi è bastato, capito? Con quasi 100 euro di maggiore non sono riuscito a rimanere a stato, cioè se sono arrivato sì, sono riuscito alla galleria e mi sono fermato. Ma cazzo, 200 mila lire di gratuito per scendere a Cagliari, all'anima, un bel. Allora c'è qualcuno malato, gli si è sottoposto da tutte le parti. Va bene, dai, riprendi qua. Voglio dai, lo prendo di saluto perché domani io devo lavorare. Sono abituato a farmi molto presto. Sono già le 11, me lo vorrà mamma. Ciao Franco, ciao Mario, Gianni, c'è ancora Scopo, Luca, Roberto. Chiunque ci fosse, dai, sul canale 10. Buonanotte a tutti, guarda qui per me. Ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao Cla, buonanotte, 7351 da parte mia, da parte della 50, ce la riascoltare le uscimine. Anche io chiudo Maria, dai, sono già le 11, quindi guarda mamma anche io. Ciao Mario, ciao Antonello, e c'è la componenza che c'è a casa tua, che tutti gli ascolto mi essendo qui quella che sono in ascolto. Ciao Magava, saluto a tutti quei reti per me. Ciao ciao. Ciao Cla, buon tutto e ce la riascoltiamo alle prossimine. E lei ci portava sulle canne. Ciao Cla, buonanotte. Ce la riascoltiamo alle prossime. E guarda che il nostro poi ci stava aspettando che ci volevano parlare di una persona. E invece mi ha detto che non ci ha visto. Perché con gli orari che sai non è che ci può giocare molto, adesso da praticamente da lunedì per la normalità, quindi di pomeriggio ci scendo e mi faccio due chiacchiere. Ok, perfetto. Ciao Mario, di nuovo. Allora usa questa, la radio, che va veramente bene, bene, bene, bene. Ciao, buonanotte a tutti, QRT, bye bye. Ciao, ciao, buonanotte.